se non prendo il caffè non riesco a carburare. La grande maggioranza di caffè consuma 30 ziglia al giorno. Il caffè è la seconda maggioranza trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali. Tutto il mondo si beve caffè. E a 17 puntuali Caffè Doppio riprende come ogni domenica e siamo in compagnia dei nostri ospiti della domenica, Eva e i CTP. Allora, benvenuti, iniziamo questa puntata di Caffè Doppio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Benvenuti e ancora un'altra volta, perché già l'ho detto, però una volta non basta. L'ho detto io in realtà. L'hai detto tu? Beh, vabbè, mi sono sbagliato, dai. Vabbè, niente, si autopresentano con il loro primo pezzo live. Intrappolata in una bolla che non lascia troppa aria, io rifletto gli occhi dentro specchi opachi. Prendo tempo, faccio altro, non ti penso ma ti canto, ripensando ai tuoi sorrisi disarmanti. Nararara, nararara. Favole vorrei portarti in mondi che non riesco a delineare nel confronto. Impossibile parlare di parole per chi soprattutto vede mille cose. Chiarificare le visioni sembra troppo complicato, molto meglio uscire fuori a far due passi. Immaginando occhi, labbra, odori, viso, mi travesto da bambina imbarazzata. È troppo complicata. Rumori, stupori, assuefazioni, rendimi dannata. Questo era il primo pezzo degli Eva i CTP che ci presenteranno in questo momento, che si chiamava Rendimi Dannata. E adesso passiamo subito all'ascolto del secondo brano live acustico qua a Radio Onda Rossa 87.9 FM. Eva ha smarrito la strada, Eva non sta. ormai solo pretese. Eva non guarda negli occhi, ma poi mi parla di sé. E ti diranno, sono sbagliata, ti diranno che non mi capisci. Inventeranno emozioni, parleranno per te e per me. Eva, le ali piegate, quando mi guarda andar via, ma se mi vede sorride, dietro lo specchio lei c'è. Eva non usa le scuse, Eva è ingombrante così, ride guardando le cose. Eva, Eva, uno, due, no, sì, no, no, sì, no. E allora 87.9 Radio Onda Rossa, buon risveglio a tutti e tutte con Caffè Doppia e con Eva e i CTP. Ancora benvenuti negli studi di Onda Rossa, un buongiorno con questo sole splendente. E spero che vi siate svegliati bene, ma sicuramente con la musica di Eva e i CTP non vi potete essere svegliati male, è proprio molto improbabile, insomma, diciamola così. Vi propongo, come al solito, un applauso virtuale allo 06491750, una bella luce ci abbronzerà a tutti, eccola prima, perfetto. E allora, iniziamo questa chiacchierata, prima di continuare a suonare, una domanda un po' classica per presentarvi in generale, la vostra provenienza musicale, nel senso come siete nati, l'esperienza che avete fatto, la formazione e tutto quello che in generale volete dire di voi. Perfetto. Beh, io sono Eva e sono l'autrice della parte quantomeno dei testi e di arrangiamenti bozzo fatti male che poi loro mi rimodellano a dovere, e ho sempre cantato, ho sempre recitato, mi piaceva, però non avevo mai avuto un progetto tutto mio che parlasse di me, e quindi anche l'ultimo pezzo, insomma, Eva, quello che faccio sia fuori che dentro. E poi avevo bisogno però per questo progetto di avere non solo dei musicisti bravi, ma anche degli amici, delle persone con cui condivido delle cose, anche perché loro non sono musicisti bravi, quindi ho scelto una delle due cose. Beh, non replicate, cioè dopo no, che vi no, lei ha ragione, lei paga. Ah, ecco, allora è diverso. E quindi un po' per esperienze passate di suonate insieme separatamente e un po' perché comunque ci vediamo spesso e siamo sempre insieme, gli ho proposto questa cosa, gli è piaciuta e adesso suoniamo insieme. Quindi il vostro progetto è nato praticamente inizialmente da te. Sì. E poi loro si sono aggiunti successivamente. Sì. Il gruppo da chi è formato? Allora, il gruppo è formato da me, appunto, poi al basso elettrico, che però oggi tutto per voi suonerà la chitarra classica, Alessandro Pilo. E poi alla chitarra Simone Battista, che adesso suona la chitarra. E poi virtualmente qui il nostro batterista, che si chiama Daniele Russo e che oggi non c'è, ma noi ci siamo organizzati. Virtualmente sta qua con noi. Vero. Cioè noi lo vediamo, è una presenza, sta qua insieme a noi. Vabbè, un saluto. Sì, allora sì, salutiamolo. Sì, sì. Vabbè, altre lui non sa di essere salutato perché si chiama cingalese. Quindi... Ah, è vero, è importante. Ah. Però non si riconosce proprio nel nome e cognome. Vabbè, allora tanto parliamo un attimino del, a parte di come è nato il progetto, ma che cosa vuoi portare con questo progetto, oltre hai detto appunto Eva parla di te, quindi volevi parlare di te, ma oltre quello qual è il tuo obiettivo con questo progetto? In realtà a me la cosa che piace di più è raccontare delle storie in qualunque modo, e un po' la mia formazione teatrale, il fatto che faccia l'attrice, che faccia la regista o che insegni a raccontare delle storie, perché poi è questa la cosa bella delle cose. E ho detto, perché se non scrivo una cosa mia posso raccontare una mia visione di una piccola cosa, non voglio fare le cose in grandi, non voglio fare delle cose politiche nel senso di partitico, ma anche raccontare una storia a sette persone invece che una è qualcosa di politico in qualche modo, è qualcosa di sociale, e quindi mi piace questo. E per il prossimo futuro ci potete anticipare qualcosa? Già c'è in programma la costruzione di un album, di un EP o un qualcosa? Guarda, adesso per la gioia del mio bassista specialmente siamo per andare in sala a registrare. Ah. Poi vediamo che cosa ne esce, insomma. Poi contemporaneamente, adesso è estate, quindi magari qualche festival estivo che ci piacciono tanto. Abbiamo appena fatto il concorso Marte Live, vediamo come va, insomma ci svaghiamo un po'. Che noi conosciamo bene questo concorso, però non dibattiamo, insomma... Beh, non parlo, meglio di no. Ho capito benissimo. No, però vorrei farvi una domanda, che questa è, diciamo, parlando di studio registrazione, quindi di entrare in studio, volevo parlarvi un po' del vostro rapporto con etichette discografiche, se ne avete una, se state in cerca, o comunque come vedete il mondo della musica rispetto alle etichette. Posso far rispondere loro? Certo. Vai, vai. Ma in realtà non abbiamo avuto nessun tipo di contatto, forse neanche abbiamo cercato, perché... Siamo nati relativamente... Nessun tipo di pensiero in merito, cioè non ci siamo posti il problema di etichette o quant'altro. Per noi l'importante era registrare un prodotto valido per tutti e poi suonare tanto. Poi se arrivasse anche la possibilità di un'etichetta, noi siamo a braccio aperto, insomma. Ci devono riempire di soldi e dobbiamo vivere nel lusso per tutta la vita. Beh, certo, questo è chiaro e scontato. Però royalties, diciamo. È inutile dirlo. Vabbè, quindi il vostro punto di partenza non è sicuramente il successo inteso come quello commerciale di vado a cercarmi un'etichetta per sfondare e viva tutti, siamo felici. Ma se no andava X Factor. Brava, brava, era quello che volevo arrivare, volevo sapere questo da voi. Va bene, sentite, allora prima di suonare gli altri due pezzi, se ci volete lasciare un po' di vostri contatti, dove possiamo trovare la vostra musica. Se certo. Adesso se state andando in sala di registrazione, perciò magari ci sarà nel prossimo futuro. Sì, sì, sì. No, nel senso che adesso anche su MySpace o sulla pagina nostra di Facebook, e quella me la ricordo che è VCTP. Poi siamo su MySpace come Annalisa Eva, però praticamente la pagina è di Eva VCTP e ci sono dei brani che però sono registrati per il momento chitarra e voce. Vorremmo incrementare, ci sono un paio di video di festival che abbiamo fatto, però insomma lì per adesso ci trovate, troverete anche questa cosa nella radio. Però insomma incrementeremo a breve. Va benissimo, io sono ansioso di ascoltare anche gli altri due pezzi, se DWX è d'accordo con me. Sì, sì, sono d'accordo, anche io sono veramente ansioso di ascoltare i prossimi pezzi. Però prima vorrei farvi una domanda, perché sono curioso di sapere qual è il vostro rapporto con i live. Più che altro, dato che siete una band nuova, che è nata da poco in realtà, ci sono molti aneddoti da raccontare, pochi aneddoti, non ci sono aneddoti. Eva suda, mi sa che è ansiogena. No, in che senso il nostro rapporto con i live? Rapporto con i live io intendo come avete vissuto i live, i primi live, se avete fatto già dei live o siete farli. Abbiamo suonato, poi comunque loro, al di là del fatto che io li bacchetto sempre, comunque al di là di me hanno molte altre situazioni, suonano con altri gruppi, non sono gelosa, ancora non sono gelosa. E... questo ancora mi fa pensare che tra poco sarà gelosa. Certo. E dato che vi paga, come ha detto prima esatto. Lui, prima o poi vi metterà in catene. Certo. Se tanto paga. In casa. Gabbia col cane, proprio. Ci sono limiti. Senza alla cibo, dignità, però. Ecco, insomma. Però possiamo anche contrattare su quello. Possiamo scendere giù con la dignità e vedere l'accomodamento si trova. No, beh, a parte questo, i live penso che siano comunque un punto dove metti un po' insieme le cose. Io poi con loro a suonare, specialmente dal vivo, mi diverto un sacco. Perché succedono quelle micro cose e poi io comunque mi esce la cosa di attrice, quindi mi sto a casa un po', anche se mi terrorizzo ogni volta, però alla fine mi sento più a casa, terrorizzata a casa. Va benissimo, allora direi che siamo pronti per ascoltare i prossimi pezzi quando volete. Frasi e discorsi i più giusti da fare, sogno quasi sempre da sveglia, trovo sia divertente colorare la gente, volo fra un pensiero e un altro, ci saltello cantando e poi scappo via. Quasi sempre sospesa, in costante attesa di chi è un po' come me. E mi metto le mie ali da farfalla, vado in giro fra la gente che mi guarda come se il mio mondo sotto sopra fosse niente. Prendo e schiaccio le mie ali, cerco un posto che non c'è e rimango a mezz'aria, cerco di capire dove è andato a finire il mio mondo e perché, e rimango sospesa e mi guardo dormire, mi concentro sul buio, porto tutti i miei sé. Oh, osservo coi miei occhi giganti le persone che ho intorno, quanti figuranti. Mi muovo sempre in punta di piedi attraverso i segreti di chi parla con me. Ah, zitta, devi stare zitta per non fare rumore, continuare a volare a mezz'aria per cercare le cose. Non avere più scuse, mi travesto da me e mi metto nuove ali da cornacchia, vado in mezzo alle persone che si spostano da me, prendo e brucio le mie ali da cornacchia, urlo, cerco ancora un posto, fatto scelte da di capire dove è andato a finire il mio mondo e perché, e rimango sospesa e mi sento svenire, mi concentro sul buio, porto tutti i miei sé. Thank you. dormire, mi ricordo di me. Questo era il terzo pezzo portato da Eva e i CTP. Io volevo farti un'ultima domanda qua, dato che stiamo qua ancora in chiacchiere. Sì, sì, sì, dimmi. Ho visto che c'è una parola, comunque, parole che ricorrono, sì. Che è volare, sospensione, tutte parole che fanno pensare... Soprattutto la più curiosa, che non si sa dove esce, Eva. Tameto, si imbosseri ogni tanto, però porca miseria. Vabbè, comunque stiamo parlando di volare, sospensione, tutte queste parole che fanno volare l'immaginazione, appunto. Te, riuso volare perché proprio quello che stavo immaginando, ma hanno un motivo di fondo in tutte queste tue pezzi o... Ma in realtà penso che sia, perché comunque quando io mi immagino un pezzo me lo vedo davanti. E forse perché ho pensato, ho sognato per anni di volare, cadere, schiantarmi per aria, non so. Però sì, è vero, mi ricorrono le stesse parole, è un po' un desiderio di volare anche con l'immaginazione, di volare con i pensieri, con le cose che vorrei che gli altri ascoltassero. Questo, o forse sono ripetitiva, non lo so. Più semplicemente. Studia di più il vocabolario e forse magari otterrai qualcosa di meglio. No, vabbè, io immagino che comunque le parole siano usate perché... In quel momento tu pensavi proprio a quello, e punto. E una domanda che vorrei porre invece ai musicisti, ai musicanti: vi definite in un genere specifico? Ah, meno male, l'ha chiesto a voi. È per quello che fa tribolare tutti i musicisti questa cosa, almeno a me come musicista fa tribolare. Io normalmente ascolto brutal, col basso suono brutal, quindi mi trovo un pochettino un pesce fuor d'acqua in queste circostanze. Mi danno una cosa con sei corde, provo a fare quello che... mi viene, però fondamentalmente ci mettiamo un po' del nostro tutti e proviamo a tirar fuori qualcosa che sia, non dico interessante, dico semplicemente quello che volevamo dire in quel momento, ecco. Ok, quindi è un alternative brutal. Sì, assolutamente sì. Brutal for dummies, dai. Allora io direi di... anche neri, tra l'altro. Allora direi di concludere questa intervista molto pazza con Eva e i CTP con l'ultimo loro brano e cedo la parola a voi. L'ultimo brano appunto si chiama Vado Via, così almeno per ovvi motivi. Per essere coerenti. Sì. Esco in fretta, non ho voglia di sentire più. Lascio tutto, scappo, cerco quel che oggi trovo fuori. Ti abbandono lentamente, lascio tutto e vado via. Non cercatemi da adesso, era tutta una... sola vedo voce e volti. Sorridenti, dissacranti, non si curano di me. Niente applausi né saluti, con un salto vado via. Il palco, sono fuori, era tutta fantasia. E mi riprendo la mia. Con lustrini colorati, prendo tutti i miei. mezzo ai prati. Guardo un fuoco che si accende, amo le mie fantasie. Brucio tutti i miei programmi, odio le Questi erano Eva e i CTP. Un ringraziamento sentitissimo. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao ragazzi. E un applauso adesso perché non... a stavolta vero. Insomma, vanno via. Ancora grazie anche da parte mia, da parte di Radio Onda Rossa, da parte di Caffè Doppio, da parte di Wix non più, e da parte delle mura dello studio di Onda Rossa e dai vicini. Cioè... E dai vicini anche, sì. Va bene, grazie ancora. Adesso passiamo alla seconda parte di questa puntata di Caffè Doppio. Manca poco alle 5:30, non siamo stati precisissimi. E, questo, insomma, dovremo migliorare prima o poi e finire proprio alle 17:30 precise. Tra poco suoneranno le campane di San Lorenzo, forse riusciremo ad ascoltarle. Intanto andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione, io direi. Tu che ne dici? Beh, la seconda parte della trasmissione, facciamola iniziare con un breve spot pubblicitario. Fine dello spot pubblicitario. Andiamo avanti con la trasmissione. Va bene. Questo è una cosa che mi è venuta sul momento, mi dispiace per i radioascoltatori, io sono turbato seriamente. Cambiate frequenza, evitate 87.9, segnate con una precetta rossa, mi raccomando. Oppure fate in modo che quando parlo io la radio cambia automaticamente, che secondo me è molto meglio. E direi di passare alla seconda parte della trasmissione con rullo di tamburi. Caffè Doppio proudly presents Americani Blue Bluff Once an Hour Barack Caracasa Blanca Para di Ciucciu. Ma che cazzo hai detto, dai? E vabbè, le notizie di Otrebla. Buonasera da Caffè Doppio in questa domenica. Maggio 13 2012 17:31 in questo istante. Le notizie direttamente dal paese dei balocchi o paese dei furbi. Molti gli italiani che hanno votato per le elezioni amministrative. Le preferenze recapitate ai numerosi comuni votanti hanno palesato le aspettative della vigilia. PDL e Lega in calo, spesso nemmeno al ballottaggio, PD fermo e Movimento 5 Stelle in crescita. Il caso più eclatante è quello di Parma, dove il tanto discusso movimento populista dell'antipolitica è arrivato al ballottaggio con il 20% delle preferenze. Ma... un tantam sul web, così è nato il mega raduno nazi fasci razzista svoltosi ieri in quel di Guidonia. I fascisti del terzo millennio di Casa Pound, quelli che diventano campioni di greco-romana e vanno a fare gli agguati ai ragazzini di notte in 5 contro 1, respingono ogni idea di coinvolgimento. Parlano infatti di cani sciolti che si sono radunati nella giornata di ieri per ascoltare i gruppi emergenti di Aria. Il concerto commemora 20 anni dalla nascita degli SPQR Skins. Ma... il boss Bernardo Provenzano tenta il suicidio infilando la testa in una busta di plastica. Un gesto dimostrativo? Un messaggio a qualche sconosciuto destinatario? Un tentativo di una sperata revoca del 41 bis? I PM sono stati avvisati dell'accaduto dalla polizia penitenziaria del carcere di Parma, dove il boss è detenuto solo il giorno dopo. Forse è meglio che il sovraindicato, prima di morire, racconti un altro po' di cose. Nel frattempo, noi popolo continuiamo a illuderci che queste cose non le sappia nessuno ai vertici di quello che chiamiamo ancora apparato statale. Così siamo con l'anima in pace. Notizia fresca, il procuratore antimafia per eccellenza Pietro Grasso afferma in un'intervista radiofonica che darebbe un premio a Silvio Berlusconi per la lotta alla mafia, poiché in 3 anni ha consentito di sequestrare 40 miliardi di beni a Cosa Nostra. Silvio Berlusconi, ricordiamolo, è quello che nel 1975 e nel 1986 non denunciò quelle che, anzi, definì bombe affettuose fatte esplodere nella sua villa a Milano perché messe da sue ambigue bipolari conoscenze. Silvio Berlusconi, ricordiamolo, è quello che fino a data 1992, come recita la Cassazione, pagò cospicue somme a Cosa Nostra per un accordo di natura protettiva e collaborativa. Silvio Berlusconi, ricordiamolo, è quello che depenalizzò il falso in bilancio e varò 3 scudi fiscali, regalando ai mafiosi l'anonimato e il rientro dei capitali sporchi in cambio del 5% di tasse. Ma dopo la tentata candidatura a premio Nobel per la pace del nobile B, nel paese dei furbi possiamo aspettarci questo ed altro. A voi la linea in studio. Caffè Doppio proudly presents Americani Blue Bluff once an hour, Barack Caracas Blanca para di Ciuccio! Ma che cazzo hai detto, te? E vabbè, le notizie di Otrebla. Ringraziamo Otrebla per Otrebla News, queste importanti notizie che la domenica pomeriggio non possono mancare. Passiamo al resto della puntata. Andiamo avanti con ricordandovi che venerdì prossimo si festeggiano i 35 anni di Onda Rossa. Via con lo spot. Devo dire le cose che sento sempre. Radio Onda Rossa dal 1977, senza padroni, di niente e di nessuno, la meglio radio che c'è stata. La mano sul cuore 2, festa per i 35 anni di Radio Onda Rossa. Ma non erano 36? Sì, ma 36 scattano la settimana dopo. Hai ragione, venerdì 18 maggio, ore 21.30, CSA La Torre, via Bertero, 13, Casal de Pazzi. Dalle ore 21.30 saranno con noi, con letture, corti teatrali e musica, Elio Germano, Johnny Palomba, Valerio Aprea, Eleonora Danco, Daniele Miglio e gli Ardecore in duo. La mano sul cuore 2, festa per i 35 anni di Radio Onda Rossa. Venerdì 18 maggio, CSA La Torre, via Bertero 13. Ne vorrei prendere sembianza dell'uccello un giorno solo. 2 minuti, apri la letta, andammene lontano. Me voglio servà! Me voglio servà! Ma su tra mezzo all'angeli. Allora, venerdì 18 maggio 2012, festeggiamento per i 35 anni di Radio Onda Rosso, una mano Onda Rosso. Non lo so, basta. 35 anni di Radio Onda Rosso, una mano sul cuore 2. E allora, a proposito di questo, vi ricordiamo, anzi vi diciamo che nonostante l'abbiamo vissuta ancora per poco questa radio, la sentiamo a cuore anche noi giovani, speriamo di poter contribuire al meglio per portarla avanti. Vi ricordiamo il conto corrente postale per contribuire a Radio Onda Rossa, è 618-04-001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56, da 35 anni, Radio Onda Rossa, la radio senza padroni e senza pubblicità. E allora, a questo punto, direi di andare avanti con questa puntata di Caffè Doppio di questo 13 maggio 2012 alle 17.38. Presentiamo questa seconda metà di puntata dedicata a un genere musicale troppo, troppo, troppo importante per la troppo nostra... Cool, troppo cool. O per troppo culo, magari. La nostra infanzia. Lascio la parola a DVX, Otrebla e Cucchiaino, che intanto sono entrati intanto in studio. Buon pomeriggio. Siamo buon pomeriggio. Siamo buona in postazione. Mattina, perché non hanno capito che è pomeriggio, fidete. Sì, quindi buona mattina a tutti i radioascoltatori che si sono sintonizzati adesso su Radio Onda Rossa, proprio perché si sono svegliati in questo momento. Ma ti sei fatto troppi caffè doppio? Certo, certo. Un attimo esaurito. Che è diventato, cosa? Che è diventato cosa? Quadruplo ormai. Cosa? Cosa? Cosa? Nel frattempo che DVX si esaurisce cosa? Nel modo cosa? Giusto e meno proprio per la situazione. Parola d'ordine. Gabbiani! Noi ci andiamo ad ascoltare Blue degli FL 65. Yeah. Ma che bella dizione, Utrebla. Sompate 0649-1750. E se vi piace, fate squillare il telefono di Radio Onda Rossa 0649-1750. Mamma mia, ma dove sono gli altri? È un quarto d'ora che li sto aspettando, ma dove sono? Mamma mia, alle 10 dovevano arrivare e invece io sto qua da un quarto d'ora. Poi non rispondono i cellulari, ma uno che mi chiamasse, almeno uno dico. Me basterebbe uno. Mamma mia. Oh, ecco, era Otlebra. Otlebra. Pronto? Oh, Dan. Sì, dove stai? Scusa, è un quarto d'ora che ti sto aspettando. Vabbè, allora, prima di tutto, calmati che stai un po' esaurito come al solito, troppi caffè. No, non è troppi caffè, è che qua tu sei il solito ritardatario. Senti, dove sei? Vabbè, aspetta un attimo, allora. È successa una cosa, vabbè, una cosa che poi ti spiego dopo perché non mi pare poi ti spreco troppi soldi. In ogni caso, due minuti e arrivo. Sì, dove stai? T'ho chiesto dove stai? Vabbè, due minuti arrivo, dammi te, cioè non è che... Dove stai? Uno sta a pensare che... Cioè, è che... due minuti, dammi due minuti, tra un quarto d'ora arrivo, ciao. Ma guardate questo, mi butta pure il telefono in faccia. E adesso che faccio? Vabbè, due minuti. Aspetterò, mi ascolto una canzone nel frattempo. Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri Ponte, di Gabri Ponte, di ballate dentro il cerchio della luce. bella da? Oh, bella da me, ma insomma sei 20 minuti in ritardo. Vabbè, ho capito, ma tanto che c'è devi da fare? Devi pulire i carciofi, devi cucinare. Ho capito, ma io c'ho una vita. Non è arrivato manco Alberto, che te frega. Dai su, c'ho una vita e so 20 minuti in ritardo. Ma aspetta, ma... Eccolo! Ma non è... ecco appunto, è Alberto. È arrivato, visto? Sono arrivato io, è arrivato bella. Alberto. O tre bla, adesso me devi spiegare, ma tu che c'avevi da fare? Vabbè, senti, è una storia lunga, poi... prima non te volevo spiegare il telefono, figurati mo se te la spiego così in diretta, non voglio in un momento offendere, no. Ma un momento offendere? Io vorrei saperlo, scusa, no, mi sono vabbè, perso la vita. No, è tutta una cosa, ma scusate una cosa, siamo tutti? Cioè, sta grande serata, famo, tre persone, tre no, gatti. In realtà manca Cucchiaino. Ah, dovrebbe arrivare, però, come al solito. Vabbè. Ma quant'è che aspetti? Mo 20 minuti. A te t'aveva detto 2 ore, scommetto. Sì, sì, ovviamente al telefono. Oh, sono 4 ore che aspetto, Come sempre. 40 minuti dopo. Oh, bella, regà. Li mortacci, tu ando stavi? Mo ce lo dici. Oh vabbè dai raga, sciallo, ho fatto un po' di ritardo, ma non ti preoccupare, cioè sto qua mo. Un po' di ritardo. A me, oh, Un po' di ritardo. Cioè poi io potrei essere l'ultimo a poter parlare, però nel senso un po' di ritardo, cioè un attimo una concezione un po'... Scusami, sì, l'appuntamento vabbè, era... tranquilla, dai. Vabbè, oh. Raga, dai, ce la dobbiamo tagliare. Cioè... Oh, dai, che stiamo a fare, raga? Cioè, se dobbiamo muovere, cioè, dobbiamo fare qualcosa. E che... Vabbè... Non so, io aspettavo, mi è venuto sonno. Dighi. Sì. E non so se voi magari vi riconoscete in qualcuno di questi personaggi, il ritardatario, quello che arriva sempre puntuale, non lo so, magari potreste dircelo, sarebbe interessante. E da oggi... ve lo chiediamo. Potete risponderci, non più facendo solo lo squillo se sì o no sì, ma ci potete scrivere un SMS al 342 3574 357, numero di Onda Rossa. Noi riceveremo un SMS e sapremo, finalmente potremo dormire sapendo chi siete, cioè se arrivate in ritardo, arrivate presto, arrivate tardi, arrivate presto o tardi, oppure presto, prima o dopo, prima, cioè, qual è il senso? Oppure non arrivate, mezzo. Che magari date buca. Esatto, capito. Senza avvisare, come faccio io con Dolby Buix molto spesso. Mandateci un SMS al numero che abbiamo detto prima e diteci che tipo di persona siete agli appuntamenti. Vi ricordiamo, 342 3574 357. Le battute agghiaccianti di Debo. Perché il pomodoro passa le notti in bianco? Perché l'insalata russa. Le battute agghiaccianti di Debo. Siamo noi, siamo solo noi quelli che... Quelli che non hanno... alla fine dove dobbiamo andare? Allora guarda, secondo me tu tanto stai in macchina, no? Andiamo a casa mia. Più la chitarra. Prendiamo, andiamo tipo a Ostia. Ci mettiamo là, sai, il mare, la spiaggia, le stelle, la luna. Ho capito che non ci stanno i schelle e tutto. Vabbè, però uno si deve pure accontentare. Vabbè, però andiamo, mettiamo là su una brezza marina, tutte le cose, no? Che dite? Dai, io un po' di musica, tutte le stelle, mi piace questa idea, sì. No, ma dai, la brezza marina, dai, fa freddo cane, cioè, che dai, proponi? Cioè, ma non lo so, io ho detto, a me mi sta più a sonno, cioè, io me ne tornerei pure a casa, cioè. Beh, ma in realtà forse pure un po' di sonno ce l'ho, me ne andrei a casa. No, ma che state a dire tutte e due? Ma andiamo a ballare tutta la notte in discoteca? Dai, no, troppo, che vedi, vedi che t'ho convinto, vedi che t'ho convinto. Vabbè, l'importante è che tutto quanto quello che volemo fare finisca con un cornettino. Cioè, nel senso, anzi, io invece porterei pure mo, perché un po' di famina mi è venuta effettivamente. Tu che dici? Boh. Beh, a me sì, te, a me piace una cifra. Ma te che posizione prendi? Beh, regà, scialla, per me va bene tutto, cioè, non vi preoccupate, mi sta bene tutto, cioè, mi piace tutto. Se vi sta piacendo questa coattata trash anni 90, squilletto a 06491750 oppure un sms a 342 357 4357. La Marmec. Yepo. Per me va bene. E te pareva? E prendi posizioni! And the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace. Vabbè, come al solito finisce che non si conclude mai niente in queste serate. Questa era una scenetta tipo delle nostre serate, credo anche delle vostre. Chi arriva sì, in ritardo e non arriva, vi riconoscete in quello che abbiamo rappresentato. Beh, non lo so, per me va bene così. C'è pure sempre l'ambiguo, sì, va no, bene quello, va bene quell'altro. Ti giuro che prima o poi gli tiro una martellata in fronte. Va bene il bianco, va bene il nero. Ma io sono la Svizzera, sono non belligerante. Va bene il buio, va bene la luce. Va bene il signore, va bene Satana. Non lo so, è sempre una persona ambigua. In ogni caso, Onda Rossa e Caffè Doppio è arrivata al momento dei saluti. Eh già, purtroppo siamo arrivati anche oggi in questo momento molto triste. Sugli 87.9 è il momento di Jazzy Jazz. Come tutte le domeniche, dalle 18 alle 19, un'ora di jazz senza pretese. I Caffè Doppio per questa domenica 13 maggio 2012 vi saluta e torna la settimana prossima sempre dalle 17 alle 18 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E naturalmente con la stessa formazione di Today, Tomorrow e non dico il resto. Toyota. Sì, Toyota. Ah, pubblicità! No. Non va bene. No, non, no. Va, no, non va bene. Pubblicità occulta. Ma alla fine noi che abbiamo fatto? Nella nostra vita nulla, in questa giornata nulla allo stesso modo, quindi non so che cosa intendi per cosa abbiamo fatto. No, ieri sera dopo l'appuntamento. Chi se lo ricorda, scusate. Per me è andato bene così. Mamma mia. Qualunque cosa fosse andata bene in questo modo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno supportato e hanno supportato Cocchiaino con la co. Come cock. No, ti va bene? Francesco con la P, pra. Ti va bene? Va bene. te la pongo anche io come domanda, va bene? Certo che mi va. A me va bene, essa, ma per te è uguale. Per me va bene, va bene. Caffè Doppio vi saluta. 87.9 FM, sono le 18 e quasi in punto e vi lasciamo alla prossima domenica. Buona serata a tutti. Ciao, waio. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?